chi c'è là sotto? Beh, la carabiniera è venuta, Ancora no, credo che stava c'è la fuoco. Abbiamo telefonato prima, ma non so perché mi danno le cancine. La telefonia non è. Però se vado qui all'istante, capito bene? Anche dopo è posto qua. Dove sei adesso tu? Vabbè, posteggia davanti al mio vicolo, molto ci vuole. Entri lì e non ti dice niente nessuno. Così mi dai il case e poi vai via a fare quello che devi fare. Ehi, se vuoi puoi chiamare anche un quello là a me, che già sono in ascolto là. Sì, sulla monitor no, già ce l'ho. C'è un buio campanello, ci vuole. Ehi, vabbè. Ciao. Chi è avanti? Beh, Natale. Oh, ciao, fra. Come andiamo? Marco mi ha portato questo case e lo stavo smontando. Sto smontando questo case. Tutto a posto? Il case già va bene. L'alimentatore era di quelli vecchi, già ce l'ho uno da 500 watt che c'ha le prese SATA, perché manco prese SATA aveva quella là. Quindi non poteva andare bene per un altro circuito, diciamo così. Ma intanto accendeva, ma non c'era più nessuno questi giorni, boh, come mai? No, ieri ce l'avevamo avanti, e sempre ci siamo. Tardi sono entrati, ma la Rai a dire. Vabbè, anche io stavo entrando poco, dai. Prova a chiamare a vedere se c'è Marco, a vedere se è arrivato a casa sua. Marco? Chi Marco? Rafa Pignara. Ah, perché era in macchina era? Eia, mi ha portato il chiesa. Ho già smontato il telamato e tutto, anche l'alimentatore. Adesso vedo un po' qua. Ho capito, ma la macchina non ne ha strumento, non ne ha parecchio, no? Mi sembra che c'ha uno di quei PMR. Ah, ho capito. Ho provato a chiamarlo sul canale 14, boh. Non so, entra qua, entra. No, dico, sei ancora in macchina? No, penso che sarà già arrivato, magari sta cercando posteggio, capito? No. Ah, se vuole. Chi è? Buonasera. È la stazione Gianni Do Fiorù che ti super cordializza. Ciao Gianni, buonasera anche a te. Ciao Franco, ben sentito. Avanti Natale. Sì, sono indaffarato con questo case, mi dovete scusare, riprendete voi, là, vi ascolto. Era, vabbè. Cosa stai? Piazza dei Pizzi. Marco, Marco, adesso ci piazzo l'alimentatore mio, quello da 500, che c'ha le prese SATA, perché quello che c'era qua manco le prese SATA aveva, capito? Quello lì Marco te l'ha dato il case. Sì, il case me l'ha dato Marco. Adesso li piazzo, me lo piazzo piano piano, capito? Cosa ti manca? La scheda video? No, mi manca tutto. C'ho solo l'alimentatore da piazzare adesso. Perché non mi andrò mai? Andave. Qualche cosa non si può recuperare dall'altro che avevi. Vabbè, ma toccherebbe distruggerlo se lo tolgo. Gli hard disk, ma gli hard disk glieli metto nuovi, ce li ho già. Questo lo lascio funzionante, non si sa mai. Qua ci vuole solo la scheda madre mia nuova. Se la trovo me lo ripiazzo, perché anche un dual core quello è già quello che sta andando. E magari Luca ce l'ha, prova a chiedergli. No, ne ha di quelle. Ma già le vendo. Adesso prima mi compro quello per farmi questo qui. Quello che ci vuole. C'è una leggera alternata quando parli. E cosa ne so io? Alternata. L'alimentatore dunque da 30 anni. E la sento anch'io. Guarda un po' la sedia adesso. Prova a schiacciare senza parlare. Cosa? Schiaccia la portante senza parlare. No, adesso è. E perché ero troppo vicino all'alimentatore? Ma c'avevo un rosio, capito? Era un po' fastidioso. Franco, cosa ci racconti di bello? Questa antenna è terminata, dai. Sì, terminata, però è sempre qui sulla finestra, là, sempre lì. No, questi giorni entravo ogni tanto così, accendevo ma non c'era nessuno, quindi spegnevo subito. Poco tempo, qualche problema, dai. Oh, che ci siamo ogni sera noi. C'eravamo ieri, c'eravamo avanti. Ogni sera ci siamo, come mai non ci sentiamo? Magari accendevo gli orari in cui voi non ce l'avete, qua ce l'avrò acceso 6-7 volte minimo, anche la mattina a volte, ma non c'era nessuno, ma anche sull'altro canale, era proprio sul 23, non c'era nessuno neanche lì. No, ma la mattina non entra nessuno, è difficile. Noi entriamo dopo le 6, 6:15, 6:30, così. Sì, no, così, accendiamo il pomeriggio, tardo pomeriggio, qualche chiamata, ma non c'era nessuno, quindi anch'io ripeto, avevo poco tempo, e quindi niente. Vabbè. Noi eravamo qua, devi avere più pazienza, riprovare, lasciarlo acceso, scaldare, poi ci entriamo. Io l'altro giorno ho lasciato un altro che ha preso acqua, l'ho lasciato acceso dopo che l'ho asciugato, però questo che già sta funzionando, anzi è proprio questo che sto usando adesso, là. Sei troppo alto di eco, Gianni, abbassa. Io sono troppo alto di eco. No, per me sei troppo alto, poi. Buonasera a tutti, sono ascolto comunque. Prova, clac. Guarda, adesso. Ciao Cla. Ciao Fra. Oh, prova. 1, 2, 3, 3, 3. Abbassa. Vado in un altro canale, regolato. Vabbè, Cla, guarito sì. Va. No, non ho voglia, Fra. Fa male a gola, no. Non ho voglia. Sono entrato neanche ieri. Non aggiunga. Sì, no, questo. Allora, riguardati ancora, dai. Vi ascolto, sono qua, se mai entro più tardi. Anch'io, questi giorni ero un po' così, anch'io ho poca voglia, mobilità. Vabbè, vediamo se... Comunque saluta tutta la famiglia, io lo sai, no? Se Natalino ha piazzato. Natali. Dimmi Gianfra, va bene così? Aspetta un po' che... Per me è ancora troppo alto, La ripetizione, Gianni, stai ripetendo troppo. Tu non riesci più a regolarsi il microfono, andava così bene. Dagli appena di reverbero e basta. Deve essere l'ho toccato, no, non mi piace così come adesso. Sì, il genere lo usa molto più basso, è appena percettibile, là. Non so, lo regolerà lui, come per me è troppo alto, a volte non si capisce niente. Infatti ancora a volte perdi qualche parola, anch'io, già sono un po' mezzo sordo. Questo sta uscendo come sempre, o Cla? Questo sta uscendo bene come apparecchio? Il tuo? Sì, sono colpa da chi non ti ascolto bene. No, questo è un altro, questo è quello che esce con meno watt, da. No, va bene. Ma il mio mi piace, sì. Come? Il mic gain? No, ho detto se c'è il mic nel mio. Sì, si sente quel mic, non è forte, ma sì, è molto amplificato, però anche tu potresti anche un po' abbassare. Amplificato? Io ci metto poco a abbassare, non me ne sono accorto, perché questo microfono lo uso con due radio, capito? con due baracchini, in uno magari vuole a due, nell'altro vuole a quattro, adesso ce l'avevo a quattro, adesso l'ho messo a due, va bene così. Venga, per me va benissimo così, per me va molto meglio. Io l'ho tolto, ecco. Sì, ma c'è la ripetizione, si sente, io ho tolto, cosa hai tolto? Sì, ma si sente appena, lo sai che io lo uso così. Prova a vedere. Guarda, uno, due, tre, prova. Ecco, adesso sì, adesso è migliorato come sempre, ma poco fa era un bel alto già, ma un bel però. Ti dico perché l'avevo alzato per fare, ecco, a voi l'attarino ieri, capito? Quindi è per quello. No, così è bella già, così è bellissima, così è come sempre, dai, lo sai che a me piace così, prima era troppo alta. Va bene, dai, riprendi con Franco, io ho un mal di gola allucinante, non mi basta più. No, sto andando col... il 3009, quello Colt, però con l'MPP5, capito, senza eco, chiuso, tutto chiuso, già va bene la radio. E quello lì, se rimetti l'eco Colt, non va bene il microfono amplificato, No, già lo mantiene bene, qua, lo sollevo appena appena, solo che non mi piace, vedi? No, già va bene, va bene. Non fischiano e niente, ma solitamente innescano, quando sono modificati innescano. Hai modificato vecchia, la massa delle varie, che cosa di poco intanto. No, beh, c'è il panascolta, basta chiuderlo, c'è il panascolta regolabile, basta chiuderlo e non fischia. No, ma io se lo uso Colt, lo devo fare andare Colt, c'è il microfono normale, va bene. Per usarlo con l'MPP5 lo uso così, tutto chiuso, capito? Riprendi, fra. No, forse così, figurati, se ti inizi a aprire. Ma l'ascolta, quindi praticamente tu mentre parli ti ascolti nella radio direttamente, in diretta? Sì, però devo cambiare il microfono, devo mettere il microfono normale, se non fischia col preamplificato. Questa è una bella radio. Questa è una bella radio, il Superstar 3009DX Colt, bella radio, bella massiccia, ma soprattutto è molto selettiva, capito? Non prende colpi, niente. Va bene, dai, riprendi con Gianni, dopo se mai riprendo, dai, che mi sistemo il cane. E poi sei andato al karaoke già? Cosa? C'era il karaoke, ne avete fatto? No, non ci siamo andati, non siamo andati. Ma ci devo andare, devo organizzare, devo trovare amici che ne hanno voglia di andare in questi posti. Purtroppo molte amicizie sono andate dall'altra parte, quindi non posso più cercarle. In che senso dall'altra parte? Già capito. Addirittura si sono schierate. Allora non erano amicizie allora quelle? No, non schierate, nel senso che escono più con l'altra parte, quindi io non ci faccio nulla. E allora diciamo che quelle lì andavano in tutti i locali, eccetera, eccetera. Andavamo da tutte le parti. Ho capito, no, a volte sai com'è, a volte le donne come sono, no? Litigano qua, poi fanno pace. Però tra noi uomini invece è tutto un altro ambiente, quindi se noi dobbiamo uscire usciamo lo stesso, anche se loro ormai non si possono più vedere. Una serata già me la voglio fare, dai. Perché sono cose che a me piacciono, boh, mi sono sempre piaciute. Poi mia figlia canta, sono stato sempre in mezzo alla musica, perché mia figlia sta sempre a casa, stava sempre provando, quando deve fare la serata, eccetera, eccetera, quindi si mette per karaoke, cantava, riprovava, faceva, quindi la musica ce l'ho proprio nel sangue. Nel DNA proprio ce l'avete, dai. Sì, a me piace molto anche ascoltare gli altri che cantano, mi piace. Qualcuno già bisognerebbe prendere il microfono, però. Cosa? A qualcuno bisognerebbe sequestrargli il microfono, però Siamo la gente brava anche. Ma diciamo una cosa, che il microfono. Uno lo prende per divertirsi, non per far vedere che sa cantare. Aspetta un attimo. Avanti, KP2. Prova bene, avanti. Bassino, sì. Bassino, anche di radio, non sei molto forte. Se ti ho sentito molto meglio, dai. Che apparecchio hai? Vai. Devo controllare con gli occhiali, aspetta. Prova a vedere. Bassino si risegnale. Sentite se tocca Santiago 5. Gianni, mi senti? Sì. KP2, cosa ti volevo dire? Qual è quell'azzurro metallizzato? Quello che rimane sull'azzurro metallizzato, il Polmar, quello che c'hai tu. E te ne hanno mandati rotti, così. Avanti che ha detto mi senti. No, non mi senti, mi senti. Ciao, buonasera, Marco Scorpio. Oh, ciao Marco, mi hai sentito? Mi senti? Ho capito bene, sì, mi senti, ho detto. Mi senti, la senti questa voce? Chi parla di un cuore? Questo è un canto del tempo passato, già. Già, come sempre, un vecchio tuo amore qua che sto utilizzando, volevo capire. Intanto, prima di influenzarti, sapere se mi ricevi bene. Sì, Marco, abbastanza bene, dai. La senti questa voce? Parava, parava, parava, chi canta il mio cuore? Questo è il Galaxy Saturn, già, ce l'hai anche tu, mi pare, non l'hai dato via. No, ce l'ho sempre, ce l'ho sempre. Adesso te lo attacco e te lo faccio sentire. Io l'ho messo, l'ho abbinato con Sadelta. Ed è un bombo. Ora te lo faccio sentire, lo attacco. Attacca, attacca. Questo è collegato con un Turner più 3, quella versione grigio-verde con martellato come Turner, quello con la scritta plus 3, non con la scritta più, col numero più, con la lettera più e con il numero numerale 3, ma con la scritta proprio plus 3. E niente, tra l'altro era a posto, poi c'era un problemino con un potenziometro, meno male poi Fabrizio è riuscito a recuperarmelo e me l'ha sostituito, quello della F-Gain, che non andava più, il carboncino ormai era andato, ma si era ossidato a furia di stare fermo, perché era immacolato, dentro non era mai stata toccata, solo che ovviamente tanto tempo fermo, queste cose con queste radio, se non vengono utilizzate, si deteriorano. Sentivo che c'era anche qualcun altro con te, non so, lascio un attimo di bianco, vediamo un poco. La buonasera, Marco Scorpio, Monte Parte Alto. Sono entrato, Fred. Aspetta, devo scendere giù a dare una mano ad Anna, sono qua comunque, ciao Capri. Marco, questo è il Galaxy. Spettacolare, saluto a Claudio che ho sentito e a Franco. Va molto bene, già, molto amplificato, bella modulazione. E Gianni Capri 2 invece, ciao, buonasera anche a te, ben sentito, ti ascolto un po' basso come segnale, ma io qua con il tiro della mia antenna sono precario, non è un'antenna data per questa frequenza, la Mantova si è folgorata nel tempo e niente, bisognerà fare assistenza. Polmar 9000, ho capito, ma adesso no, 7000 hai detto, Polmar 7000, adesso vado a vedere com'è, perché non me la ricordo questa radio, Gianni. Allora l'antenna a doppio room, che è facile per gli altri amici. Sì, ciao Marco, non so come c'è anche tu, buonasera, ben ascoltato. E io già sto andando con il Superstar 2009, microfono è l'MPP5, giusto così per far andare anche un po' i baracchini, te l'avevo detto, ogni tanto lo attacco, questo però è quello modificato, è quello con l'eco eccetera, ma non lo uso, lo uso solo così per fare due chiacchiere col microfono da tavolo. Va bene, dai, per fare due chiacchiere, tanto siamo noi qua, i watt sono una decina, questo c'è una decina di watt, Va bene, vediamo Gianni se riprende. Gianni? Ehi, ma mi hanno chiamato al telefono Marco, mi stava passando a casa. E niente, stavo rispondendo al telefono, ho potuto riprendere per quello, scusate. Marco, comunque queste vecchie guardie vanno sempre bene. Io quando ogni volta che parlo con questo apparecchio mi copro il occhio, proprio me lo riempie. Ce l'ho tanti belli, c'ho anche il Cobra, poi ho non stazione base, però sono belli lo stesso, il Magnum eccetera eccetera, però preferisco sempre questo, per me questa qui è la mia chicca. Già, sono quando ci si affeziona le cose, anche a me è una delle radio del passato mi piace di più, e non ti nascondo che mi dispiaceva perché non si poteva accendere, perché c'aveva il volume che rimaneva impallato, non faceva cra cra cra e poi non andava bene, insomma a me non dico che debba dare chissà che cosa, le radio vecchie sono radio vecchie, è comprensibile, ma perlomeno insomma che funzionasse in maniera decente. Poi ti ripeto, nuovo d'estetica, nuovo come chassis, nuovo mai in viti, mai aperte, e l'avevo acquistato con piacere, proprio perché generalmente ce ne sono di queste, ma le trovi sempre un po' con le manopole tutte ossidate o scacciavitate o cose varie, invece questa era intonsa, e funzionava anche bene, quando l'avevo presa funzionava bene, però questo problema di questo potenziometro era da risolvere, ma avevo anche cercato qualche vecchio apparato così da recuperare, per recuperare i pezzi, invece poi meno male che Fabrizio è riuscito a recuperare un po' di questi pezzi smontati da vecchie radio. Adesso mi ricordo se forse era di un Pluto, perché diciamo che la scheda madre di queste radio più o meno viene replicata su tante apparecchiature, ma è sempre la stessa. Comunque è riuscito a recuperare il potenziometro, perché non si trova, sappi che questi potenziometri hanno delle sono custom, sono fatti appositamente per queste radio di allora, e non ci sono perché sono fatti in maniera diversa, e avevamo provato le altre e non andavano bene, insomma, morale della favola, ci siamo riusciti a reperirlo, che è stato il tutto. Poi abbiamo approfittato per dare un'occhiata generale, quantunque era già abbastanza a posto, e adesso è ok, è così, va benino, fa sempre piacere. Bene, dai, facciamo girare l'antenna, credo che adesso vada per Franco, se ancora in ascolto, altrimenti per Claudio, che farà girare poi per Capri 2 con questo pezzo d'antiquariato Polmar. A te, K. Franco non le prende, ok, le prendo io allora. Oggi siamo tutti con i maracchini vintage, ma di solito ce li mettiamo in funzione. Ok, Capri, quindi l'hai terminato anche l'altro, quello che stavi mettendo a posto, che cos'era? Quello che pare che avevo dato io, il courier, quello lì, l'hai messo a posto? Gianni? Oh, Gianni non riprende, sarà spostato, dice che era al telefono, forse ha detto che c'era Marco al telefono, sarà andato che stava arrivando, forse è andato male a riceverlo. Ho capito Gianni, ma perciò ti stai sempre dedicando a queste radio vintage, continua la malattia della radiatura, e io qua sono, ho terminato buona parte dei lavori dalla parte di radio amatoriale, adesso deve cominciare da inizio anno, parto con l'altro lato, il lato fermaglia, tra virgolette, ma ci sono affezionato, ne ho tanti, eccomi, vedi, buoni 23. questa che ha acceso oggi, che se la guardi sembra uscita dalla scatola della Galaxy, è nuovo, fiammante in tutte le sue parti, così come ne ho altri nuovi, belli, tipo l'Argus, che 5000 che ce l'avevi anche tu, mi ricordo, e altri. Ho anche un bel Tokai che ho comprato da Walter, un bel 50-24 che funziona anche molto bene. Io adesso stavo guardando, mi dirai un po', perché questo Polmar Wix 7000 non l'ho trovato sulle immagini di internet. Abbi ancora, dimmi un po' se c'è qualche altra cosa per poterlo cercare, perché non vedo che radio è. Già, io te l'ho detto, in tempi passati ho avuto il Polmar 46D, che praticamente, se ti ricordi, si ricorderà anche Marco, era simile al Tenco. Al Tenco l'avevano fatto 23 canali e 46 canali. Mi ricordo vagamente di questo Polmar che avevo avuto, ma ti parlo proprio degli anni che ero ancora a casa di mamma. Ed è una bella radio, un bel bace, però sicuramente non ha niente a che fare con quelli che ti ho dato io, col console, con Royce, con quelli lì. Tu sei collezionista e posto, quindi io ho tenuto giusto due o tre baracchini di questi vecchi, così questo è un superstar che sto usando adesso, 40 canali. Poi però in base no Gianni, perché non c'ho posto, capito? Però è bello avere queste radio, avere delle collezioni, come c'è Marco, come c'è Walter, insomma, i collezionisti che hanno posto, che tra l'altro poi li usano, perché poi li usano. Va bene, vediamo se è rientrato Gianni o Franco, qualcuno riprenda lì nella bassa valle del Coghina. Avanti, Gianni do più rum. Ehi, allora io vi saluto, dai, che è arrivata gente a casa. Vi saluto tutti cordialmente e vi auguro buon continuo QSO. Ciao a tutti, ciao Marco, ciao Claudio, Franco, Capri 2, Natalino, eccetera eccetera. Saluto a tutti, dai. Magari sto in ascolto, però c'è gente che non mi va di lasciarmi su, dai. No, già, procedi, tranquillo, ci sentiamo, ciao. QSL, mi ricordo benissimo quella serie tipo Robin, tipo... più aziende l'hanno griffato, ma la radio poi era sempre la stessa, identica, proprio non cambiava assolutamente nulla, era in tutte le sue zone, i colori, e le strisce azzurra o tutto giallo o altri modi, era un bel base. Ma praticamente faccio questo Polmar 7000 e Wix, perché Polmar Wix 7000 scrivo su Google e non su immagine e non mi dice niente, non viene fuori nulla, o Capri 2, non esce fuori niente. Mi dirai un po', va bene, non avevo sentito che c'era anche Natalino, lo saluto, allora l'antenna la passiamo a Natalino. Avanti Natalino, ciao, buonasera. Marco, buonasera a tutti, perché io sono impegnato, sto facendo cosa qua, non posso riprendere, mi dispiace. Vi ascolto, va. L'ha fatto al forno per cucinare. Sto facendo cosa su un computer, un assemblaggio. Già, io forse se dici di Polmar 46D o qualcosa del genere, forse riesci ad avere dei risultati. Io mi ricordo che era appunto un base tipo il Comstat, tipo il Tenco 46, tipo... non mi dico, Gianni, ma è quello col cassone in ferro? Sì, o quello col cassone in legno? Che buonanotte. Ave Maria, piena di grazie. QSL, non lo so, guarda, probabilmente era l'ultimo pezzo disponibile, perché poi l'hanno cancellato, Google con la gomma deve aver cancellato tutto da internet, non c'è più niente già. Wix 7000, Polmar, scrivi, qua non esce niente, con la cimosa l'hanno cancellato da qualsiasi sito e da qualsiasi parte. Ma sei sicuro che sia Unifor X di 7000? Non c'è, qui Polmar su X 7000 non esce nada, famosissima cantante degli anni 70, non esce nada, va bene, non so, non ce l'ho presente, mentre sì, io parlavo di quello che ha detto anche Claudio, che c'ha la scatola di ferro, del valvolare, l'hanno marcata in diversi modi. Guardate, giallo, giallo canarino, guarda, fantastico, ma proprio bello, nuovo, tipo una sorta di rimanente di magazzino. Non so se funziona, perché queste radio poi bisogna accenderle costantemente, se no si squaglia. Non so se è operativo, ma esteticamente era fantastica. Giallo, giallo limone canarino, guarda, veramente bella. Quella che stiamo dicendo io e Claudio, quella lì, non lo so, non mi ricordo io, anche perché con questo 7000, non vi puoi niente come forma, né Wix 7000, né spaziato, né forma 7000. Vabbè, ok, l'antenna allora a Claudio, Natalina sta facendo le formagelle, non può riprendere. Oh, sparito anche Franco, ciao Gianni, sei in ascolto, allora buona serata, buona... Attendi pure lì agli ospiti. No, già, io, come dice anche Marco, io conosco quel Polman, che sono in ferro, simile al Constat, al Denko, quella serie lì, sono molto bellino. Quello lì me lo ricordo perfettamente, anche perché ce l'aveva uno di Porto Torres, proprio quella, quella serie lì, che era un tassista, Torino si chiamava. Quindi ho conosciuto quello quando ero a Porto Torres, però quello station 2 no, veicolare o cos'è, transistorizzato, base, non lo so. Va bene, va bene. No, adesso mi è venuto in mente, Marco, quando hai detto quel giallo canarino, di quel base che aveva prestato Walter ad una persona, cos'era, mi ricordo, un baracchino base giallo, che poi quello che ha restituito non era più un canarino, sembrava un passerotto, perché si è messo a lucidare lì le cose, è uscita tutta il balavan, per carità, non si toccano mai con le cose, soprattutto con i diluenti, perché sono cose datate, cose che come le tocchi vanno via, bisogna stare sempre attenti. Io ho questo superstar che è favoloso, proprio originale, come il giorno che è uscito, era sempre dentro una scatola ben custodito, con tutte le sue scritte, tutte le sue cose. Va bene, Capri, non riusciamo a capire qual è questa radio. Ma stavo guardando anche se c'era su Cheap Tricks adesso proprio, e ho cambiato radio, questa è vecchiotta forte, questa è il Tokai BV5024, un gioiello, la faccio bacio poco fa, bello, bello, guarda, questa mi piace perché era una radio che quando veicolari a me non mi hanno mai particolarmente appassionato, devo dire che ne ho pochi di questi veicolari. Aspetta, scusate un attimo, mi sta girando il telefono, riprendi qua, fai girare. Tocca 5124. Gran bella radio con quella custodia lì plastificata nel frontale, gran bella radio, anche bella massiccia, perché mi ricordo che era molto pesante, molto molto compatta, poi ha una bellissima modulazione, una radio eccezionale. Sì, anche io ho avuto Gianni il 5024 e il 5008 ho avuto, però mi piaceva più invece Marco il 5024, esteticamente era molto più bella, capito? Riprendi Gianni, mi sta squillando il telefono anche a me. Come sono ritornato qua, Marco Scorpio, no, vediamo un po'. Allora, questo Polmar, vediamo un po' se c'è su. Fatto male questo tipo, non c'era una carrozzetta, è vacante per guardarlo, lo vedi che non c'ha un terza, se voglio cercare una data, non me lo va. Andrea Cibi Mari invece è uscito Cibi Museum e Cibi Musina lì su. Sembra più Cibi Musina di fatto. No, non è fatto più così. L'avevo visitato tempo fa, ma mi sembra completamente diverso. Alle volte questi programmatori, per migliorare, peggiorano, perché non c'è più quella... A parte il fatto che c'era l'elenco delle marche non sbagliate, andare sulla marca e trovate la radio di Apulia. oppure andate su cerca e trovate il modello di radio che vi serviva qua. Invece aspetta un attimino che vado a vedere sul GPTrix se la trovo. Vai un attimo, riprendi. Non l'avevo visto, me l'avevi già detto, Gianni, sul sito lì, ma ha ragione Marco, è un po' fatto da gado, tocca stare rigirando, cercando. È bello quando, sai, c'è tutta magari la radio in ordine, le cose. C'era un bel sito anni fa, che poi io non mi ricordo più come si chiama, dove c'erano tutte le radio vintage, anno per anno, bellissime, tutte, diciamo, quasi in ordine proprio di età, però non mi ricordo più che sito è, non lo so. Riprendi Gianni, che sono senza voce, scusami, ma è una settimana che sono a pezzi con questa influenza. Riprendi. È un po' di stop. Sì, già ho capito, però sai, quando uno che lavora molto al computer va a fare una ricerca, deve essere una ricerca bella, capito, digiti e ti dà tutte le radio come devono essere. Mi ricordo c'era anni fa un sito proprio al computer dove c'erano, ti ripeto, tutte le radio vintage, anno per anno, con tutte le foto, bellissimo sito, però non mi ricordo più come si chiama, avevano dato il nome, forse me l'aveva dato Roberto Quadrato, non me lo ricordo più, ma se c'è qualcosa di quella radio, Marco già è pratico, già tira fuori, però quel sito lì, museum lì, è un sito di... Boh, non è organizzato bene, capito Gianni? Un attimo, dovete fissare, ma mi devo allontanare. Io riprendo tra una decina di minuti e può scendere al piano di sotto. Riprendi qua, fai girare, mica c'è fortunato, beata lui. Sentiamo fra un po'. L'uomo alla garanzia, dici. Va bene Marco, siamo qua. Quando vuoi, riprendi. Fortunato, cosa c'hai a voce? Non mi fare gridare che non c'ho voce. Dove sei e con chi sei? Allora, sono da solo. Prendo appunto solo. Fantastico. Se imbarcarci questa ora così di piombo. Prendi, mi sento strano, amico mio. Cosa siamo qua? Oh, fortunato, sono una settimana, guarda. Intanto premetto che da quando sono andato in pensione, quindi da 2 mesi fa, sono sempre malato e non sto uscendo di casa, esco, vado giusto lì al bar del Quadrato a prendere un caffè e basta, poi me ne rientro a casa. Ma a prescindere da quello, è più di 10 giorni che con questo raffreddore che mi è passato, adesso mi ha preso la gola e quindi sono un po' rauco e... vabbè, ci sono mille luci. Kappa. Quindi me ne devo, capito, devo stare a casa. Quando stavo lavorando non avevo mai nuda, mai. Allora c'era porca miseria, tutti i miei colleghi con l'influenza, tutti a dolori, capito? Nessuno veniva a lavoro, io sempre andenne. Adesso che sono a casa io, sono sempre raffreddato. Vabbè, pazienza, dai. Ok, avanti Capri 2, lo senti a Fortunato Lacchi? No, non ti ha sentito. Fortunato, l'hai sentito a Gianni Capri 2 da Muros? Passo, faccio fatica a tirare con voi. I miei coordinati sono qua a Brigiani, sta cazzo di grattacielo, ma chi su una grotte? Io qui su una gru. No, di chi su una grotte? Vergogna, ti prenda niente da quell'impianto lì, mamma mia quanto è brutto. L'avesse terminato almeno, la vita è così. Con tutti che si verri, entrano, esci, croci che salgono, croci che scendono. Mamma mia che brutto. Vabbè. A lui ogni tanto, se non arrivano contributi al Vaticano non va avanti. Cappa, dai. Dai, fai girare, intanto io. aspetta un attimo, vediamo Gianni in QRX. Franco, ci sei? Avanti break. Ciao Marco, scusate, ho sentito boffa, ma mi sono dimenticato di lanciarti. Io sono completamente messo male. Infatti c'avevo il baracchino acceso questo. Sto facendo due chiacchiere con la Superstar, col 3009. Va bene, questo io non ce l'avevo acceso proprio fa il computer, ma lo aspetto, ma comunque stava cercando anche Marco Scorpio, non l'ha trovato. Non me lo ricordo questo baracchino, io mi ricordo il Polman 46, il 23, però questo UX 7000 non me lo ricordo. Vedi un po' se riesci a trovarlo, dai. Nel frattempo rilancio a Fortunato prima che lo perdiamo. Vai Fortunato. Perché partita c'è ieri, ha giocato l'Inter, oggi chi sta giocando? Sì, Fiorentina Sampdoria Coppa Italia. No, ieri ha giocato l'Inter con Ruben Evento. Ho capito, no, non lo sapevo. Ecco perché manca Giulio Dollaro, lui ha attaccato la TV. Va bene, Fortuna, dai, ascoltati la partita, già siamo qua. Ok, riprendi tu Capri 2, allora poi magari quando rientra Marco rilanciamo, vediamo se l'ha trovato questo Polman. Io non mi ricordo di questa radio. Riprendi Capri. Ah, tipo quella lì, come quella che mi ha dato a me Pinocchetto, il Zodiac 23 canali fase. No, non è Zodiac, quella, se mi ricordo, lo sai, perché io con quella lì base celeste, quella lì l'ho data a Marco Scorpio, che le mancava quella lì, 23 canali, capito? Se è tipo quella, allora me la ricordo qual è, quella lì è. Ho capito, adesso però la mia, io non mi ricordo se era Zodiac 23 canali, poi se rientra Marco te lo dirà, o se era l'Inuit, o se era l'Inuit 23 canali, che sono uguali, tutte e due col cassone in ferro celeste e il cromato davanti, capito, quella lì. Sì, quella lì io ce l'avevo lavata a Marco, che le mancava nella collezione. Capito? Quella esce molto bene, 23 canali molto selettivo, col tale più 3 è una scheggia quella radio lì. E la tua è 23 canali o 40 canali? Ho capito adesso qual è, ho capito. Sì. È simile a Zodiac, che 23 canali base, transistorizzato, simile all'Inuit, come quella che ho dato a Marco, 23 canali base, cassone celeste. Quello lì, sì, e davanti rimane cromata. Quando schiacci la portante ti dà il rosso ricezione, il verde c'è scritto on air, quella lì è. Esatto, che poi sono uguali all'Inuit 5024 base, sono tutte e tre quasi uguali, forma l'Inuit e Zodiac. Adesso ho capito quale, sì. Poi magari se rientra Marco capisce lui al volo qual è. Adesso sì, infatti è quella che io mi ricordo, aveva questo tassista, non era veicolare base, 23 canali, compreso il 22 alfa o l'11 alfa, ed era così celeste. Sì, è quella. Va bene, avanti Marco Condo, riprendi. Sì, io sono per me molto felice celeste, molto felice tra l'altro. Purtroppo la coppia veramente piccola che la raggiunge dei compagni. Siamo a fare di fai domani, ci appiccia qualche fuori, vedrà. Allora, può darsi pure Marco che quello che stai guardando tu è scuro, perché lo facevano anche sul nero, capito? Ma il Polman era nero, mentre l'Inuit e il Zodiac erano celesti come cassone. Sì, è questa. Sì, questa è quella con il nero. Allora, uguale a questa, io ce l'avevo celeste e l'ho data come collezione a Marco Scorpio. Sì, uguale a questa. Ho capito, uguale a questa. Sì, solo che la mia era celeste, già. Con l'orologio meccanico, già. Se ne avete di stop. Sì, uguale a questa, uguale, sì. Ciao Ste, buonasera. Sì, uguale a questa, precisa identica, questa fanno Lino Hit 5024 23 canali e lo Zodiac 5024 23 canali. Sono quasi gemelle tutte e tre, diciamo che sono gemelle. Ok, solo questa è nera, ma forse riverniciata, messa male. Però il suo colore originale è celeste, è celeste. Avanti, proprio il colore del 5024, proprio del Tokai 5024. Avanti, te, buonasera. Sì, buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ben ascoltati, vi sto ascoltando da prima. Sì, anche il Midland fa quella stessa versione che state dicendo. C'è anche Midland, una delle prime serie, mi pare che è 34 canali e 40 canali, però lo chassis è lo stesso, è tutto identico, solo che cambia la marca. Vai, è fine, non dire bugie, vai. Mica ti chiama quell'amico tu. Sicuro? La facciamo conoscere a Claudio, quel ragazzo. Buonasera a tutti. No, non è che conosco più di gente cattiva, io ormai sono diventato buono e voglio conoscere gente buona, capito? No. Ciao Luca, ben ascoltato. Sì, Stefano, sì, sono quelle, Midland, Inuite, Zodiac e Polmar. Lavoravano tutti su quella serie lì e sono quasi tutte e quattro uguali le radio, magari qualche pomellino di differenza, ma lo chassis è quello, c'è l'autoparlante davanti, sì, sono tutte e quattro uguali, dai. Ciao Luca, avanti. Oh, Cuocuomane, riprendi. Sì, ciao Cla, ciao Stefano. Mi sono ricevuto a casa per fare una ricerca su internet, perché là a casa sua non ne ha internet, cioè praticamente non gli funziona il computer al figlio, non lo vuole far toccare, la sua tiene così. Sono dovuto salire qua per fare una ricerca. Claudio, cosa ne dici? Se lo facciamo comprare quel microfono a Claudio di Valerio? Sì, l'ho comprato anch'io. Claudio, tocco un bel microfono. No, non ho bisogno del microfono io. Ce lo sapete tutti e due dove lo dovete mettervelo. Chiamata viene varia. Cuocuomani. Oste? Sì. Domani sera devo scendere a Olbia, che arrivo la figlia della mia ragazza. E parto da qua alle 5. E io sono qua, non ci sono là. Lo so che sei qua, se no mi capita ben inteso, Già lo so. Vabbè. Sono una giugana, mica una giugana. Dopo io scendo piano piano, a 90. Alla media di 90 a 100, quanto ci metto? Un'ora, un'ora e 10, così. Oh, tanto poi ci sono i rallentamenti a 50, quindi in un pezzo vai bene correndo, camminando tranquillo, poi devi andare piano obbligatoriamente. Sì, ci metti 50 minuti se vai tranquillo. Non è meglio così, tanto curvo non ce n'è, strada nuova, vero? Beh, diciamo, sino a arrivare a Meserios ce l'hai, diciamo, scorrevole, poi inizia ad essere normale, dopo ci sono lavori in corso, poi diciamo da Monti in poi da per chi da Monti è buono lo stesso, poi da Monti in poi c'hai tutto buono sino a Olbia e quindi lì puoi recuperare i minuti per. Ascolta, allora Meserio, se poi giro a destra, giù, sinistra, giusto, proseguo dritto, non me lo ricordo, ma ci sono andato un po' di volte a Olbia, bacca l'idea, ma poi ogni volta mi veni, vabbè, poi già ci sono i cartelli, dai, ma penso che sia comunque a sinistra. Sì, se vai dritto vai a Livani Ozieri, no, tu Meserio, dopo che lo passi ti tieni sulla sinistra, quella specie di curva che c'è, che inganna un po' a tutti perché non c'è segnaletti. Sì, ho capito, vabbè. Va bene, vabbè. Allora niente microfono, Cla. No, Lugarie, già sto bene con i microfoni io. Lasciami da Cabisano, non ne voglio microfoni, poi quelli sono microfoni particolari, possono fare anche male, capito? KK. Rimettiamo il cambio per Peppino di Capri, avanti. Buonasera Capri. Sì, ti ascolto, ma proprio basso, in mezzo a livello QRM, cioè ce l'ho Santiago 1, QRM, però ti sento lì, capisco che mi hai chiamato, mi hai passato, ci mi hai dato il cambio, però a volte non capisco ciò che dici. Se riesci a dare qualche un pochino in più di, diciamo, di gas, sarebbe l'ideale, però altrimenti va bene così. A te chi è che c'è? Gianni Doppio Rum, c'è ancora? No, c'è gente a casa, si è ritirato Natalino, sta facendo il cuoco, che sta sistemando il computer, c'era anche Franco, poi c'era Marco Scorpio, mi è entrato a fare due prove col vintage, poi che c'era, boh, non me la metto più. Ma Cocconno c'è. Ah, scusa, Marcolino c'è, vai Marcolino. Ma Cocconno c'è, ma cuoco, secondo me poi lui è come Pompone, no? Cuoco, tutti e due con Natalino. Vero, mister, faccio, secondo me Marco se lo prende quel microfono che ti ho fatto vedere io. Tu te l'hai già acquistato, mandagli la foto, io se lo vuole. Quella è da palmo però, c'è da tavolo anche, ma costa un bel. Ma da tavolo quello più installo. No, vabbè, da tavolo è quello più che spinge di più. Ma c'è anche quello palmare. Aspetta, lo mando Marco, sto per acquistare questo microfono. Costa poco, ma è micidiale come esce. Ma che c'è da? La cedda, e allora, qualche cedda sarà qualche mangalioni con gli algheresi, vero se? Oh principe! Vai che non ne mando di quelle cose io, va! Glielo so che tu sei serio, ma se ti piacciono i microfoni di tavola anche a te. No, a me piacciono quelli manuabili. Ah, manuabili? Quelli a tipo tapparetta. Sì, io. Allora, Peppino in Capri, ma io faccio sentire un'altra radio, vai, questa c'ha già sto fatto, Chi? Qual è il tuo inviato, Marco? Dalla tetta G, No, GZ mi sembra che è. Ah, GZ? E tu prova, magari ci metti del raglio. Caro. Ma cos'è? È preamplificato? Sei preamplificato, tu l'hai provato, sì. No, manuabile. vabbè, cazzo non c'è acqua, Oggi mi sono lavato, non ci credete, con 6 litri d'acqua, ma l'ho scaldata. Me l'ho messa nelle bottiglie che ero troppo sporco, ero in cantiere, tutto pieno di polvere, mi sono dovuto lavare così. Se no era tutto baccalità, ero tutto incullato. E anche qui non c'era acqua, cioè non c'è acqua tutto il giorno, ma noi abbiamo la cisterna per cui ci siamo arrangiati. Ma loro te coglione con quest'acqua, già è cara, e poi tieni la sacra, ma che non si ammazza. E poi ho notato qua, lì, scendendo dove c'è Eurasia, non ti cavolo di giamma, più giù, quel ponte, c'è un camion, hanno fatto uno scavo un bel grande lì, non so cosa stanno facendo. Comunque ho visto delle, non so se si chiamano braghe, quelle che congiunge un tubo con l'altro, braghe si chiamano. Due fascioni stanno mettendo, le due collari, si è rotta la condotta da Monte Oro per Monte Rosello, per quello non ci avete acqua in quella zona, o lù. Ah, ecco, capito. Cazzo, uno scavo un bel grande hanno fatto, Ma poi ho visto anche che uno scavatore col martello stava spaccando un pozzetto, ma grande, un bel grande. Vedo casino. Via quest'acqua, ripeto, è cara, in più non vinne, ti vado di pagare l'aria, ti vado di pagare. Io se non fanno un martello non li faccio. Quelli sono le copertine di cemento armato delle camere di manovra stradali. Se non la sfasci poi la rifanno, però quelle vanno tolte, capito? Vanno sfasciate per entrare nella camera di manovra. Sono delle camere di manovra nella strada. Quando vedi quei postetti grandi lì, ci sono delle camere di manovra. Vabbè, no, ma a me non mi interessa per nulla, ci arrangiali, io non ho mai finito. No, noi no, perché abbiamo, se dovesse mancare l'acqua anche 12 ore, anche di più, abbiamo due cisterne da 25.000 con l'autoclave, quindi insomma, il nostro condomino ce lo serve per almeno 12-18 ore. Quindi no, a volte non ce ne accorgiamo neanche che manca l'acqua, capito lui. Va bene. Allora KP2, cosa ci fai ascoltare adesso? Che canzone ci stai mettendo? Aspetta che sto mettendo qualche 33 giri, perché quello che aveva poco fa era 45 giri, adesso mette un 33 giri, aspetta un attimo, aspetta adesso, lo senti bello pimpante, perché 33 giri gira di più, capito? Vabbè, dai, sono una brevista, sta è fuori, dice che sono andato qua a parlare. Niente, dai, vi saluto. Dai, ci vediamo ste, dai, non male uno di questi giorni. Tanto per il momento sono fermo, fatto per le giornate di lavoro. Diciamo qualche giornata me la sono fatta. Qualche soldino, ma niente di che, eh. Da se vediamo. E poi. E niente, dai, alla prossima. Ripeti tu ste, alla prossima, ciao. Ciao là, ciao a tutti. Ok, ciao ciao, dai, ciao, ci vediamo presto, ci prendiamo un caffè o qualcosa. A te ancora Marco. Ehi, ehi, Formagella sta facendo questo computer. Sì, sì, sì, li ho già assaggiati, ha detto che erano quasi cotte, quindi penso che abbia quasi terminato, dai. Non ci sono problemi. Va bene, Stefano, riprendi e io rimango un attimo in X che mi preparo, che sono già alle 7.20 così. Alle 7.30 porto il cane, dai. Sono qua comunque. Riprendi Stefano. Sì, sì, sì. No, poi quel messaggio che ti ho mandato ieri non era per acquistare, perché io dovessi acquistare, era per vedere se conoscevi quella persona, tutto lì. Capito, poi per essere più preciso, magari non hai capito che volevo acquistare, ma non era così. Va bene, d'accordo, Ocla, d'accordo. Abbassa un pochino, no, Ste, avevo capito sì che dovevi acquistare, ma non so manco chi possa essere la persona, perché quel tipo lì di cosa che mi hai mandato non pensavo così al 90% che ero possesso solo io, insomma, tra qua e lì. Invece tu mi hai detto che è di quella zona lì, però non capisco chi ce l'abbia, non lo so. Va bene, Caprino, riprendi, abbassa un pochino che sei tutto strappato, io mi assento un attimo che mi cambio, che devo portare il cane avanti, Caprino. Sì, sì, adesso va meglio. Va meglio, adesso ti ascolto 3-4, diciamo oscillanti al 5, 3-4-5. Così ti posso dare, questo è il mio rapporto. Oh Gianni, questo è il mio rapporto. Ancora a te Gianni. No, questo passaggio non è stato molto comprensibile, perché è troppo forte la modulazione. Ah, no, è ancora da un personaggio, forse te ne ha parlato Antonello, sai da chi è. No, non ti ho capito. Sì, si può reperire, certo che si può reperire. Si può, Antonello sa tutto e ci può pensare anche lui tranquillamente. No, già, non ho capito nulla. Potrei anche venderlo, tanto io non me ne faccio niente, perché lì fermo da, mi pare che ci sono già 3 anni che è fermo lì. Non se ne cava a piedi, cioè è fermo lì, inoperoso, inutilizzato, non si riesce a sistemare, e allora potrei anche venderlo per pezzi, non ci sono problemi. Non lo so, lo vediamo poi in un altro momento, non saprei quantificare esattamente, ho già, non saprei dire. Ho capito, dai, possiamo anche fare uno scambio, qualcosa che interessa a me, che mi potrebbe interessare. Già non mi serve niente, però potremmo anche valutare quell'opzione. Adesso non mi ricordo cosa c'è di bruciato. Ah sì, no, sì, lo so cosa ci sono. Le medie frequenze. Adesso sto utilizzando uno Yaesu FT450D. Sì. Non lo so, mi siete più forte, non lo so. Io ho sempre questo, la potenza è sempre quella, perché in AM non mi dà tutta la potenza della radio. Mi dà credo 25 watt o qualcosa del genere, forse anche meno. Non so, non ho microfoni amplificati, quello normale, basta, poi tutto qua. Non lo so, già, non lo so. Ecco. Anche prima, forse non mi avete sentito, ho chiamato anche prima, no, volevo entrare, mi stavo ascoltando per avvisare a Gianni Capri che era troppo distorto, stava esagerando troppo con il livello microfonico, adesso va molto meglio comunque. Buonasera da parte mia, Roberto Quadratto, ho sentito Marco, Gianni, e poi c'era un'altra modulando, però non ho capito chi era, avanti l'altra. Sì, buonasera Stefano, mi sento un attimino, una telefonata, rientro subito, a te Gianni ancora. Ciao. Segnale 9+15, ma che apparato sta utilizzando già? K 440. E prima cosa era? Più o meno ho capito. Tra l'altro eri troppo saturo, cioè non si capiva niente, come che stai parlando con il microfono attaccato alla bocca, era molto distorto, cioè forte di modulazione però distorta. Adesso va molto molto meglio. Ok, facciamo venire avanti Marco, avanti Marco. Apparecchio che non lo sento in radio da tantissimo tempo. Sto raffreddore, sempre mal di testa. Buona è minacciato quando ci vanno le visioni. Riprendilo, poi dai, se ci siete ci sentiamo dopo, io una ventina di minuti poi ritorno a casa. Vai Roberto. Infatti ti stavo dicendo, non sei tu qua, peggio di me, anch'io sono messo male, mi sono per diversi giorni con la febbre, oggi sto un po' meglio, infatti sì, accendo la radio se c'è qualcuno, ma mi fa male ancora la gola, un raffreddore di quelli che mi vengono poche volte nella vita. Tutta la notte senza drumi, sono 4 giorni che non dormo, perché cacchio sono tutto alluvionato, vabbè, comunque passerà qua. Ok, ma che baracchino stai usando qua? Superstar 3009 con l'MBP5. Ok, infatti, era diverso da subito. Va bene, ok, tappati sempre la testa come faccio io, mettiti una cuffietta, un cappellino, cla, ti aiuta per il raffreddore. Sì, no, beh, non so a te, ma io mi fanno male sotto gli occhi, poi c'è sempre questo mal di testa. Ho preso anche qualche pastiglia per il mal di testa, ma non mi passa proprio mai come quest'anno. Io tutti gli anni mi arriva questa influenza, però passa subito, dai. Adesso mi sta durando troppo, sono anche preoccupato, ma non è questione di naso, il naso è a posto, ho un po' di raucine, tosse non ne ho, ma ho queste fitte proprio sotto gli occhi, un casino. Lo so, quello è qualche lineata di febbre, probabilmente c'hai la lacrimazione che ti ha stancato il coso, canale lacrimale, anche a me. Oggi sto meglio, ma ieri, mamma mia, la pizzi, proprio gli occhi, come quando ti arriva un pugno a faccia, così stanchi, ti vai coricare nel letto, come che c'hai un peso sopra gli occhi. Mi ho messo la cuffietta, mi chiudevo gli occhi, li tenevo caldi, un po' mi ha aiutato. Vabbè. Passerà, dai. Comunque è buona la modulazione, roba, sì, mi senti bene, anche se siamo vicini. Sì, è forte, anche se è un po' più predominante di tonalità acuta, bassi le sento meno del normale. Comunque, vabbè, per un baracchino va più che bene, ottimo. Sì, vabbè, c'ho il tono a 2, l'avevo regolato, forse vuole regolato ancora, ma non vi vengo nuda, non io voglio mettermi gli occhiali. Era giusto per farlo funzionare un po', dai, poi magari lo regoliamo meglio. Dai, Capri 2, riprendi e ci sentiamo dopo se ci siete, ok? Sì. Sicuramente è quello che dicevo io, come l'innoiti, c'ha il coso rotativo con i canali, il numero dei canali sul potenziometro, così è. E c'è chi si guarda le partite. Ciao Roberto, ciao Marco, riprendi pure Roberto, buonasera. Sì, ciao Giulio, ben sentito. Ti rilancio Marco, vai Marco per Giulio. Fiorentina Sampdoria 3-2, Coppa Italia. E più tardi c'è il Milan. Vabbè, ok, ma tu non sei appassionato di calcio, per cui non è che ti interessa più di tanto, no? Eh beh, suppongo di sì, ma evidentemente oggi ha preferito stare al baracchino per modulare, per cui non so cosa dirti. Solo lui ti può rispondere a questo quesito qui. Avanti, vabbè. No, non lo sapevo ci fosse, vabbè, non me l'avevo guardata in ogni caso perché stavo lavorando. Sampdoria, mi ha detto Sampdoria Fiorentina, ha vinto la Sampdoria, così. No, Fiorentina Sampdoria, 3-2 all'ultimo minuto ha vinto la Fiorentina su calcio di rigore con il VAR. Così. No, ieri ho visto, è carina come partita, interessante, l'Inter con la Pordenone, cacchia, giù ma non se c'è l'Inter. Anche quella l'ho visto io, anche quella. È stata fortunata l'Inter ieri sera, perché ha vinto per il calcio di rigore, perché hanno fatto i supplementari, per cui no, a 0-20 tutti e due, poi a calcio di rigore purtroppo ha sbagliato il Pordenone e allora ha vinto l'Inter. Vabbè. Uno doveva vincere. No, se no c'era spaventato il presidente, non l'hai sentito, aveva fatto il voto, se vinceva se ne tornava a Pordenone a piedi, 250 km, si è assustato, ha mai non gli tocca fare la strada a piedi. Vabbè, quelle magari sono cose che si dicono, poi l'avrei voluto vedere, fare tutto quei chilometri a piedi, magari a piedi con la macchina, vabbè dai, vai Marco. Thank you. sì, è anche il mio, quello del computer, è quello fisso, quello di base, e sta facendo qualche riflettuccio, per cui dovrò farlo vedere, ma già farò una telefonata a Franco, casomai, lui, il mestiere. L'avevo fatto una volta, ma tanti anni fa, l'altro, però non questo di adesso, l'altro computer ancora, perché ne ho due di base, no? E poi gli altri sono portati, per cui, ma qui mi ha funzionato tutti. Questa in base invece mi sta facendo un piccolo difetto, dovrò interpellare, farò una telefonata a Franco, se ancora è disponibile, così almeno a tempo perso a dare un'occhiata al computer ancora, perché penso che stia facendo un altro lavoro adesso. Franco Delta 1, no? Franco, il suo mestiere è quello, il suo lavoro è sempre stato quello, per cui so che è anche molto bravo, pertanto prima le voglio fare una telefonata, se lui è disponibile a farmelo, non è che ho fretta, perché già ne ho di computer, per cui a Franco Delta 1, non so se tu l'hai conosciuto. No, quello non c'entra niente con il computer, quello è Franco, il marito di Ombra, quello che stai dicendo tu. No, Franco, abitava in campagna, dalle parti dell'ufficio delle entrate, eccetera, eccetera. Poi si era trasferito l'isola, l'isola quasi l'americano, te lo dico così, santarese. Però adesso non lo so se è ritornato in famiglia, perché so che si era separato, però non, questo è un altro discorso, non mi interessa quelle cose. No, io mi confido che non sia via Bucca. Via Bucca risponde una traversa di via di media, No, Franco già è bravo, ha detto bene Giulio, ma anni fa mi ha venduto un computer, un Acer, ce l'ho, avrò, non dico 15 anni, ma quasi, 12-13 anni, un recuperato, me l'aveva messo a posto, sta sempre andando bene, diciamo lo tengo di scorta, poi c'ho il Toshiba, vabbè, quello che uso normalmente. No, adesso lavora molto bravo, però non sapevo che era qua a Sassari, è già solo un anno che non lo vedo, Giulio. Anch'io sono tanto tempo senza vederlo e senza sentirlo, qualche volta al telefono, ma adesso è passato molto tempo, non l'ho più sentito. So che abita lì a Latte Dolce, lui quasi americano, so che abita lì, non so con chi, forse a casa della madre, non te lo so dire. Per cui comunque il numero di telefono non è un problema, lo rintraccio sempre, già lo rintraccio, non ci sono problemi, se è ancora disponibile a farmelo fuori orario, perché so che sta facendo un altro lavoro adesso, no? Ma ripeto, siccome io fretta non ne ho, perché i computer qui non ne mancano, ce ne sono 5 o 6 più o meno, per cui va bene così, posso aspettare tutto il tempo che a lui serve per poter appunto riparare, tutto lì, Roberto. Franco già era molto bravo, poi di quelli autodidatti ha fatto tutto da lui, faceva anche amplificatori, ti ricordi amplificatori qua per la 27, sempre inventando con le valve, era una persona nel suo lavoro già ci dava da fare. Sì, Franco è il proprio del mestiere, non è un pasticcione, insomma, ecco, Franco è il proprio del mestiere, dunque io mi affido sempre alle persone che sanno lavorare, non a quelle che improvvisano, siccome so che Franco è un bravo tecnico, e allora anche se ha cambiato mestiere, questo non significa che ha perso la qualità dell'operaio, del tecnico, per cui mi fido sempre di lui. Va bene, avanti Marco, tu non l'hai conosciuto di persona Franco? Ha lavorato in proprio in via, che via era quella, via Marsiglia, in via Marsiglia, lui era lì, prima in un magazzino, poi si era spostato un po' più all'interno, e poi penso che avesse continuato un po' a casa sua, poi ho sentito dire, so che non sta facendo più quel lavoro, ma io lo voglio sentire da lui direttamente, e sentiamo un po' cosa mi dice. È così, va bene, avanti Roberto. Sì, era a Marsiglia, poi ha lavorato un periodo con un altro, lì era una società poi non so cosa era successo, avevano aperto e avevano rubato tutto, non so cosa era successo, e poi sapevo che mollava quel lavoro per fare altro, però ti ripeto, sarò minimo 3 anni che non lo vedo. Allora, inizialmente lui aveva il laboratorio in via Cassereta, in società con un mandrone che quello non aveva voglia di lavorare, e allora lui si è staccato da quello e si era messo in gruppo in via Marsiglia. Ecco come era andata, e poi fin quando non ha deciso di chiudere lì, non so per quale motivo, ma so che era lì in via Marsiglia, ma ci è rimasto parecchio tempo. Aggiornamenti continui, come hai detto tu, quelli esterni diciamo sono consigliabili, però se è una cosa maneggevole da portare appresso, utilizzarlo anche in altre cose, il portatile è sempre migliore. E anche il mio professionale non solo per esempio. Per esempio i video di YouTube che mettevo prima li facevo con le telecamere vere, poi acquistivo col computer quello che ho messo a posto, sempre tutto volgarmente audio video. C'era tramite come si chiama? Cavi RCA, no, attacco RCA, l'audio e il video, però mi permetteva almeno di mettere i video su YouTube, fatti video, fatte le camere migliori, invece adesso i video li stavo facendo solo con lo smartphone, che però non ha zoom ottico, non ha dissolvenza, vabbè, mi poco mi interessa, però sai, lo smartphone non avendo zoom ottico un po' le sottomosse. Se inquadri una cosa un po' da vicino tende a fare quella leggera distorsione perché l'obiettivo è da un angolare. E vabbè. Comunque adesso posso ricominciare un po' a acquisire video e mi trasforma in formato digitale per quello già molto buono. Poi ho un portatile del 2005, sempre con un HD, praticamente quasi una fotocopia di quell'ufficio. Io ho messo gli stessi programmi, cioè tutti trapegnati, pirattati, registrati con le password trovate su siti anche, di software c'è un bel po', c'è un bel po'. Tutta roba che peraltro con Windows 10 non funzionerebbe. No, Windows 10 è una grandissima cagata. Io sono un computer, non è che sia molto addentrato, però ho notato è molto più complicato, molto era meglio l'altro, il precedente. Io dico le cose, devi cercare di renderle facili da usare per tutti, anche alle persone meno addentrate nel campo dell'informatica, invece hanno peggiorato secondo me. Sì, conta una cosa, quando io sono costretto a passare a un sistema operativo moderno, sarà uno sciocco, perché io praticamente ho saltato Windows 7, Windows Millennium, l'8, 8.1, cioè io sto passando da un sistema, passerò da un sistema obsoleto a un sistema molto moderno che non conosco, tanto io devo intanto navigare, ricevere da nevosi, niente di eccezionale. E però sono sciocco perché peraltro avevo un prezzo, sapevo tutte le impostazioni che c'erano dietro, come portare roba. Così c'è tutto diverso, più o meno, non lo so. C'è chi dice contento, c'è chi dice non è contento. Forse magari sta usando bene e si è andato qualcosa in più, è contento. Io non so niente. A me poi non piacciono queste cose grafiche, sempre trasparenti, che si speciale, a me non interessa. Se poi ci credi la vita, la vincerò. A me interessa solo che venga il computer. Non mi interessa avere il computer speciale, già li avevo tutti. Tipo l'ombra del mouse, il fondo delle finestre trasparenti, tutte le cose lì le avevo tutte. C'erano tre impostazioni, avevo messo impostato il computer per la massima efficienza, per la massima velocità di calcolo. Via, vai Giuda. Ok, io sono un po' rauco. Stavo dicendo, no, io sto usando il sistema Ubuntu, Ubuntu sì, adesso, perché Windows non c'è più, cioè non lo prendo più. Non so che cosa sia successo, è per quello appunto che voglio farlo vedere a Franco. Poi lui mi dirà cosa devo fare o cosa si deve fare per ripristinarlo in maniera perfetta o Marco. Ubuntu è un sistema Linux, no? Ci sono tutte le distribuzioni, Ubuntu, Debian, quelle là. Quello non l'ho mai trattato, se no non so per usare il browser navigare, però per il resto non so. Perché quello è avere Linux e imparare a usarlo bene anche a fare certe cose, più o meno legali. Molto naturalmente basta usare il mondo legale tipo. Oppure mi guarda uno addirittura si può fare, magari succederà di così, due partizioni, bella artista, no, due partizioni, su una metti Windows, sull'altra metti può essere Ubuntu, può essere Debian, può essere qualsiasi altra distribuzione di Linux, così c'è un sistema difficile da partire all'altro, infatti hai fatto bene a mettere due, ci sono due. Sì, appunto, però è difettoso un po'. No, Ubuntu è perfetto, l'altro sistema è un po' difettoso. E poi io non è che sono molto addentrato, devo essere sincero, io guardo solo determinate cose, non è che mi interessa più di tanto. Perché sì, lo uso, ma non ho questa grande passione. Ed è per quello che non mi sono mai, diciamo, non dico perfezionato, ma istruito in un certo modo proprio pratico. Io guardo determinate cose come ad esempio lo sport, le canzoni, i giornali, non uno, sono tutti i giornali, tutte queste cose qua. Dunque mi informo sul computer. Ad esempio quando devo, adesso che c'è Roberto, quando devo sapere quando ad esempio la Villa gioca in casa, faccio il tutto campo o lo vedo. Ma anche nel telefonino, io ce l'ho anche nel telefonino, il computer, per cui sono informato in tutte le maniere, anche di più, riprenderlo bene. Lo so, sei appassionato di sport, anche se non ho capito esattamente chi tifi tu di squadra. Io non è che tipo, io simpatizzo, però mi simpatizzo in maniera concreta e soprattutto seria, senza esaltarmi, perché io quando segno la squadra del cuore, per così dire, non solo del mio cuore, ma di tutta la famiglia da sempre, di tutta la generazione della famiglia Seda, e io tifo per la Juve da sempre. Quando sto guardando una partita non mi esalto più di tanto, nel senso che non mi alzo in piedi a ballare, a fare chiasso, a gridare come pazzo, no. Io guardo la partita, sia che segni la Juve, sia che prenda gol la Juve, io non, è così anche per le altre squadre, così anche per la nazionale, per l'Italia. Tutto questo perché io ho fatto tantissimi anni di sport e so cosa vuol dire lo sport. Lo trasporto non si deve godere facendo lo spaccone o facendo il gradasso o magari criticando uno all'altro, no, assolutamente no. Vabbè, per me lo sport è sport, lo sport per me è grande felicità e soprattutto grande passione, e soprattutto Siria, passione Siria, non da scalmanati o vabbè. Sì, immaginavo, lo vedi come me lo sport, anche io non sono tifoso di nessuno in particolare, da bambino tifavo un po' il Torino perché vinceva, c'era Pulici, Graziani, era quel periodo lì proprio quando ero ragazzino, ero simpatizzante. Adesso simpatizzo per il Milan, ma non ne faccio una tragedia se perde o se vince, anzi ti posso dire, mi guardo tutte le partite, se è una bella partita per dire se gioca Juventus contro il Napoli e mi piace, posso simpatizzare per la Juve, anche se per dire non mi è mai stata simpatica perché c'è sempre stata un po' di gelosia verso la Juve perché vinceva sempre, da bambino tutti si favano la Juve, ma io sono contento quando la Juve in Coppa vince, non sono di quelli che mi metto a criticare o se vince l'Inter o se vince qualunque squadra che vanno fuori a giocare, sono sempre il primo a tifare come italiano, non ho mai tifato come si dice metti occhio che perda, cose, assolutamente no, io quando mi voglio vedere una partita interessante me la guardo da solo, quando c'era la finale dei mondiali eravamo tutti giù al mare a Platamona, c'era lo schermo, tutti guardando, io sono andato a casa mia da solo in silenzio e mi sono gustato la partita da solo, senza tindimbozzi, arbitro qua là, tranquillo, senza strillare, senza niente, perché è così che si guarda la partita, non si deve impazzire per una partita di calcio, premesso anche che uno può avere tutto l'affetto che vuole per una squadra, per una determinata squadra, ma questo non è il caso di diventare arroganti e soprattutto scandalosi, perché per me quelle persone sono delle persone scandalose, non è possibile ragazzi che uno possa guardare la partita. Io una volta sono capitato in una nel bar di quel giocatore che una volta era della Torre, adesso non mi ricordo come si chiama, che poi tra l'altro il bar era qui a dei punti, e sono andato a vedere, c'era la partita Juventus su Inter, c'era il giorno, ho detto beh adesso voglio vedere insieme a tutti quanti queste persone per tassare un pochino il rumore della gente. Ha segnato la Juventus, infatti aveva vinto la volta anche, si è alzato questo che era seduto vicino a me, al centro di questo locale c'era un pilastro di cemento armato che sosteneva il solaio della casa, ha dato una manata sul pilastro, io come minimo quello sono fratturato la mano proprio da pazzi, cose da scellerati, per me proprio nel senso della parola, io infatti ho fatto il giro di spalle, me sono andato a casa e me l'ho guardato, se ho continuato a guardare la partita a casa o robe, no, non è possibile, guarda, io non ammetto quelle persone che offendono gli arbitri, che offendono gli allenatori, non ammetto assolutamente, io al massimo posso dire quando non capisce niente c'è motivo perché a me non mi va come sta Pardini facendo la formazione o come sta arbitrando l'arbitro, io non vado a dire arbitro colluto come fanno certe persone, sono persone maleducate e basta, riprendono bene. Sì, ho capito, il bar è a Parmigiano sicuramente, stavo dicendo. Il bar di Parmigiano, esatto, sì, proprio da lui. Adesso non so se c'era sempre lui lì la gestione, comunque il bar penso che ci sia sempre. Io non sono un abituale del bar, per cui non te lo so nemmeno dire se c'è ancora. Ok. Oh signore, io vi devo lasciare adesso che devo andare a mangiare, dai. Non sto neanche bene, mi sdraio un pochettino. Un piacere sempre come al solito ascoltarvi e fare una bella chiacchierata. Vi saluto, ciao Giulio, ciao Marco e tutti gli amici eventuali in ascolto. Cuore da parte mia. Ok, ciao, vabbè, ciao, alle prossime, grazie a te per la chiacchieratina, alle prossime, anche da parte mia è un piacere sempre ascoltarti. Sì, intanto prendo molto dopo scendere per la cena. Riprendi Marco. Beh certo, è una cosa normalissima pranzare a quell'ora, alle 2, 2:30, va bene, io pranzo sempre l'1, 1:30 quando è troppo tardi addirittura, perché qua quando arrivo io qua è tutto pronto, eccetera eccetera, salvo quando magari andiamo fuori, allora il discorso è ancora meglio nel senso che è già tutto pronto perché vai e paghi, non se ne parla più. L'ultima volta che sono andato sono andato anche da poco lì, da Fini, lì è la città mercato, da Bricome, come si chiama? Bricome, all'ingresso per Bricome, c'è quel ristorante lì. E devo dire che ci vanno centinaia e centinaia di persone. L'ultima volta che sono andato io, guarda, ed è esattamente una settimana dopo che era morta mia madre, con i miei fratelli e tutta la famiglia, eravamo in 28 mi sembra, 26, una cosa del genere, ci mancavano alcuni nipoti, vabbè, perché stavano lavorando quel giorno, e siamo andati lì, e devo dire che si sta bene, ma c'erano 300 persone in quella sala, guarda, una cosa eccezionale, lavorano che una meraviglia. E poi altri ristoranti, ma lì devo dire che si sta anche bene, tanto perché è vicino a casa, è un passo da casa mia. Poi ci mangia discretamente, non è caro, si mangia bene senza spendere troppo, Marco. Gracias. ci sta un bel... Un Marco non lo so, Marco era... è andato a... doveva scendere giù, non ho capito, si è allontanato. Io sono andato a portare il cane, però già ho fatto una bella passeggiatina. Siamo sempre questo mal di testa allucinante, non sto mai bindacciato avendo giocato alle pensioni, che ammazza che nelle varie. Che non è voluto accettare, che cosa che le sue forze stanno fatto? Stanno bindacciando, stanno fatto la fattura. No, va bene, no? Non mettere il cane di fuoco. Ormai poi andiamo da Don Torino, ci siamo piatta nel capocciano già, la gola, si guarda la gola, la becca. E poi c'è da prendere qualche sciroppo, forse è il mio duro, ce la fa prendere. E tua zia, la vera, supposta è il mio duro, che forse le fa bene. Quella battuta non me lo ricordo, ma perché dobbiamo prendere un po' e anche il capo perché per campo ormai il regionale è andato a facciare Giulio ha chiesto perché ha detto che a momenti l'avrebbero chiamato fa passare con il gioco mentalmente il polizio e vabbè dai ci siamo anche noi. Io devo controllare anch'io su, ma ho quel tempo che stava facendo una sarda, vedere se c'era qualcosa, infatti gli avevo detto che controllavo, hai fatto prima tu. Va bene, dai. No, ma comunque la voce è un po' raucedinosa, come dice Stefano. Bisogna aspettare che si riprenda bene, perché funziona molto bene sto microfono, questo 3009. Però è questione di timbrica, non sono in netta forma, anche col 60 non è bella come squillante come le altre volte, capito? Però così sì, abbiamo trovato una via di mezzo e lo lascio stare così, dai, che va bene. Sì, questo è il colt, sì, è tutto chiuso, è a zero, capito? È a zero, posso sollevarlo e inizi a sentire l'effetto elicottero. L'effetto pilicottero, comincia a sentirsi, vabbè, ma non è che la voce nemmeno così, no, non è la voce così, c'è un pochino, guarda, vabbè, mamma no, stava bene, ma non si chiama, era stato fatto, guarda, depressione, artrosi dell'anca, quel braccio che le fa male, come si chiama, artrite, un po'... tutti i malati che sono venuti, capito? Piazza, diventato. È proprio vero che la bella pensione si distrugge. Certo, non è a tutti così, certi anni, pensione sovedata. Poi c'è un bello, questi spazi, un giorno bello, perché ieri pioggia, oggi bello, domani piove di nuovo, ma è domenica forse. Sono il tempo tutto l'onfio, un giorno caldo, un giorno freddo, scende di 7 gradi la temperatura. Io sto io ho sempre il naso che cola invece, in questo periodo, mi cola il naso, capito? Mi scende proprio l'acquetta trasparente dal naso. Quindi devo stare molto attento agli spazi che prendo di temperatura. No, io sto bene, no. Grazie a Dio sto bene, anche me ho preso l'influenza 2 settimane fa, l'ho curata benissimo, addirittura anche con antibiotici per la gola, tutto ciò che serve per i sintomi influenzali, però mi è rimasto questo naso un pochino chiuso, ora sto pensando che non abbia un po' di sinusite e quindi mi porta ad avere, sai, quei dolori sotto gli occhi, un po' di mal di testa, però non so più che cosa prendere, quindi aspetto se passa e ciccio, dai, intanto sono a casa, non è che prendo più freddo, la mattina vado a prendere un caffè, piazza dei segni, poi mi porto il cane, una passeggiatina e sto sempre a casa, no? Non sono da nessuna parte, soprattutto in questi giorni di vento, pioggia, ieri era tutto il giorno che pioveva, quindi no, non sono uscito di casa. Se magari cambia il tempo, una passeggiatina in città mercato, al brinco, così, due fesserie, capito? Ma mi prendo la macchina, vado a prendermi un caffè a Porto Torres. Ma se la giornata non è bella, no, non mi piace. Vedi, oggi non era male, tanto è vero che sono salito su a fare dei controlli, mi sono riagganciato di polo dei 40, che si era staccato un braccio, e poi mi sono accorto che un radiale della Tre Elementi praticamente è leggermente spostato il come si chiama, l'aggancio del centrale, se mi ricordo. Comunque adesso, infatti, domani, se fa bel tempo, vado in Massimiliano, dove mettere la scala appoggiata alla gabbia lì, legata, e stringerlo bene, metterlo bene, sicuramente ho i piccioni, i corvi, ho il vento stesso, ma non credo il vento, comunque, ma nessun danno, proprio una mia, voglio essere preciso, quindi lo voglio rimettere bene come era messo, capito, niente di che, e basta, giusto per ammazzare un po' il tempo, mi marco, niente da, non a Giovanna, sto diventando peggio di te, mi ciabattone. Ehi, vabbè, quando c'è fretta. Io sto pensando di andare a vedere. Mi ricordo di andare a vedere. Allora c'è ancora fretta. Oh, che meno, non è. Quando mi gira, insomma. Accendere la frutta. Quella di libro, capisca, c'è solo un libro da 3-4 anni. Lo sa. Cioè, ce n'è un po'. Oggi quando c'è molto fretta. Oh, figlia che andiamo qualche giorno, eh. Obelizia ci va sempre, ormai che c'è tutte le ex colleghe, escono tutti assieme ancora, rimasta in buonissimi rapporti, però lei è impegnata adesso al Danit. Lavora, vabbè, il 24 lavora, però esce alle 9 fortunatamente, quindi insomma a cena siamo a casa, mentre il 31 ha dato disponibilità. Il 31 entra alle 8, esce chissà, alle 6, alle 7 del mattino. E stavo pensando infatti con la mamma di andare lì perché c'è il cenone, adesso vediamo, deve portare il menù, perché secondo voi giovedì da mangiare non vanto, cioè, però insomma c'è roba che mi piace per stare in giro, ma non me ne vado lì, tanto c'è lì, già va bene. Questo sarà uno dei primi, dopo tanti anni, primi Natali, primi Capodanno, fatti a casa, no? E si conferma, e si conferma, primo anno che faccio Natale Capone a casa, perché l'anno scorso mi ricordo, il 24, vabbè, ho lavorato di mattina, però il 25 mi dovevo alzare alle 5 e mezza, capito? Quindi dovevo andare al lavoro, il 25 e il 26 la stessa cosa, quindi non siamo andati da nessuna parte. Il 31 ero libero e dovevo lavorare il primo, quindi tu immaginati, a razza di fine anno, perché non è che puoi stare sempre a quell'ora, mi devo alzare alle 5 qui. L'anno scorso a mezzanotte alle 10 ero già a letto, figurati tu, perché poi mi devo alzare alle 5. Invece quest'anno, grazie a Dio, posso fare ciò che mi piace perché il lavoro è finito. Adesso lasciamo spazio agli altri. E perciò, ti ripeto, il 24 dovremmo essere a casa, il 25 sono a pranzo a casa mio cognato, poi gli altri giorni sono normali, il 31 vado al cenone, però non so dove ancora, se vado dove c'è mia figlia o se vado da qualche altra parte assieme a mio fratello, insomma, assieme un po' così. Ancora è tutto da verificare, Marco. E via. Mamma mia, 31 notte, ma c'è. C'è no, le cose, non vedrai, quest'anno, sicuramente anche quest'anno, questi gli andati prima, non ci sarai voi. Vabbè. Pazienza, non fa niente, non sai che problemi non ne ho, sono mai. Qualche fontanella solo luminosa, niente poco. Visto che sua maestà dice che spaventano gli animali, non le persone picchiano, le animali, gli animali spaventano gli animali. E allora, va bene, non fa niente. Vabbè Marco, anche quelli vanno rispettati, io ce l'ho e lo sai come insomma lo tratto, quindi anche il mio è, sì, si spaventa un po', però da solo non l'ho mai lasciato, adesso vediamo quest'anno perché non è che posso stare sempre a casa per il cane, vediamo quest'anno, però stavamo pensando appunto a mia figlia, lì c'è uno che fa il dog sitter qua a Sassari e anche altri, gli ho già telefonato, mi ha detto se non ci sono problemi, che ne deve tenere altre due, quindi vediamo un po' per non lasciarla a casa da solo, tutto qua. Però Filippo teme i petardi, teme queste cose, quindi però vediamo un po' come fare, se vado a casa di mio fratello me lo porto, perché gli altri anni l'ho portato, era un po' più piccolo, però me lo porto lo stesso, ma se vado al cenone non lo posso portare, quindi o rimane a casa o lo do in custodia a questo ragazzo che fa proprio questo lavoro, è anche abbastanza bravo, ma vediamo. No, io già non voglio lasciare a parte, non ho né la voglia, né no, spendere così non c'è no. Ce lo facciamo a casa, se no mi capisco. anche, ti ripeto, a causa del lavoro, tanti anni che non facevamo la croce nuova, l'abbiamo sempre fatta a casa, ma in pochi, perché poi io ti ripeto, andavo a letto presto, però io non devo andare da nessuna parte, capito? Si cena, si sta in compagnia e poi io me ne rientro a casa. No, non devo fare assolutamente niente di che, niente di che. Se siamo a casa, che vengono loro, è anche meglio per me. Capito? Se decidiamo di farla a casa, mio fratello sta decidendo cosa fare. È lui che quest'anno decide. Se però vengono a casa mi fanno una cortesia, lo mancano ad allogo e sono anche più tranquillo col cane, capito? E non diventare troppo un fraio però, io lo dico a te quando sono io capitano, dopo un giorno non faccio niente. Centrale così l'orologio meccanico come quella tua, sono uguali, mi ha mandato la foto ed è uguale a quella che tu, quindi quel modello lì praticamente, 23 canali con l'11 alfa mi pare, o col 22 alfa, una cosa del genere, solo in AM. Sì, 5 stelle. Ancora qua, ce l'ho ancora in ufficio, intanto accendevo in ufficio, qui l'ho ancora portata, è bella comunque, però targata Polmar, non ricordavo neanche di averla vista, adesso infatti sto guardando e ho visto che ci sono dei case con quella sfumino lì, però sempre Zodiac, ovvero Zodiac. Saluto tutti quelli che sono ascolto sul canale 10 QRT, ciao ciao. Ciao ciao.